Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Certo che una volta ne succedevano veramente di disastrose. Sì, una volta qualcosa come 5 milioni di anni fa. Sì, certo. 5 milioni di anni fa, è da qui che noi incominceremo. Allora, i titoli e poi arriviamo, partiamo. La domanda questa settimana ci arriva da Nicola. È vero che il Mar Mediterraneo era una valle completamente disseccata e si è riempita in meno di 2 anni a seguito dell'alluvione zancleana? Il caso è grave, ma non serio. Lo stato di salute dell'italiano oggi e l'influenza del Morbus Anglicus. Di solito parla di grandi sistemi metropolitani, ma nelle città ci sono anche le cucine. Carlo Ratti ci spiega come possono essere rese più intelligenti. Conservazione del cordone ombelicale oppure donazione? Un'indagine descrive cosa sanno gli italiani di questa tematica di attualità. Ma è una domanda. È una domanda che ci arriva da un ascoltatore che si firma Nicola Sapiens. Okay. Quindi non sappiamo, Nicola sicuro, il cognome no. Vabbè, vogliamo ricordare i contatti per mandarci le domande, suggerirci temi e comunque sì, entrare in contatto con noi? Allora la mail moebius@radio24.it. Poi cosa c'è? Twitter che è moebius_online. E lì siamo fortissimi. Fortissimi. Scusate la modestia. E poi Facebook Moebius Scienza. Eccoci lì qua. Ci trovate facilmente. Via. Ora direi diamo la parola a Nicola Sapiens. È vero che milioni di anni fa il Mediterraneo è stato un'enorme valle e che si è riempito in meno di 2 anni con una gigantesca inondazione? Così, secca. Sì, bella. Secca. La domanda di Nicola, che in realtà fa riferimento ad un'alluvione molto specifica, che ha un nome un po' particolare, ma adesso forse lo lasciamo dire al nostro ospite, che è un ospite d'eccezione. Stasera abbiamo Mario Tozzi con noi. Buonasera Mario. Buonasera a voi. Benvenuto. Vabbè, allora, ha bisogno di presentazioni, no, geologo molto tutti. Notissimo della TV, esperto, divulgatore. Zancleana, da dove? Da dove deriva intanto questa? Etimologicamente è il nome che viene dato a un periodo, sarebbe meglio dire un sottoperiodo geologico, come tutti i periodi, prende il nome da una località particolare in cui quei terreni, che poi vengono attribuiti a quel periodo, sono caratteristici. Zanclea era il nome antico della colonia greca nel territorio siciliano di Messina. Viene conservato peraltro in tanti toponimi di altri centri minori di oggi e Zancleano si riferisce proprio a un periodo geologico di 5 milioni e mezzo di anni fa, grosso modo, particolarmente caratteristico per via del fatto che in quel periodo si ritiene si sia conclusa la fase secca, siccitosa, salina, viene chiamata anche crisi di salinità, del Mediterraneo. Mm. Ecco, cioè il Mediterraneo era un'enorme valle essiccata con dei piccoli laghetti. Sì, grosso modo questa è la ricostruzione più aderente alla realtà. C'erano tanti, nei punti più profondi l'acqua resisteva, era un'acqua molto più salmastra, in condizioni quasi di salamoia, ed era un'acqua che stava evaporando continuamente per via delle condizioni climatiche al contorno. A un certo punto però, lo vediamo ancora oggi, il mare c'è, dunque succede che dall'Oceano Atlantico molto probabilmente una catastrofica, se così si può dire, alluvione, cioè ingresso di acque oceaniche, distrugge parte della soglia di Gibilterra e si precipita dentro il Mediterraneo, ricoprendolo di acqua quasi tutto, in un tempo che si dice sì, possa essere stato molto breve. Si parla di questi 24 mesi, 36 mesi, quando prima si parlava invece di migliaia di anni per poter arrivare a questo risultato. Ed è una differenza significativa, si passa dal catastrofismo invece all'attualismo, cioè sono due modi diversi di vedere il passato geologico, o in maniera uniforme, continua, omogenea, diciamo così, oppure invece punteggiata da eventi catastrofici che accelerano considerevolmente i tempi della Terra, che invece in realtà sono in genere molto lenti. Ecco, scusa Mario, tu sei andato veloce sullo stretto di Gibilterra, ma lì cos'era successo? Cioè c'era un rubinetto che si è chiuso, oppure perché lo stretto c'era, non c'era più comunicazione con l'oceano? C'è uno scalino? Ecco, se li vediamo in sezione, no? Vediamo, li potessimo vedere in una specie di finestra ipotetica sotterranea, vedremmo un grande dente, una soglia, che a quel punto emerge dalle acque, dunque viene separato l'Atlantico dal Mediterraneo, che piano piano si va prosciugando tranne le parti più profonde. Ora questo è successo in tanti altri casi, per esempio anche tra il Mediterraneo, in particolare l'Egeo e il Mar Nero. Sono fenomeni che si possono verificare quando le condizioni generali, climatiche soprattutto, una glaciazione che trattiene tutte le acque sotto forma di ghiaccio, oppure al contrario una grossa siccità, portano a condizioni estreme nei bacini più piccoli dove la circolazione è moderata, perché già il passaggio tra acque oceaniche dell'Atlantico e Mediterraneo è comunque un passaggio difficoltoso, perché quella soglia comunque, appunto, come si diceva, c'è. Ecco, questa alluvione viene descritta in un lavoro pubblicato su Nature nell'aprile del 2009 da un gruppo di ricercatori spagnoli, e viene proprio raccontata come un enorme fiume, quasi 100 volte il Rio delle Amazzoni, che praticamente fa aumentare il livello del Mediterraneo di 10 metri al giorno, quindi una roba che appunto riteniamo davvero impressionante. Questo tipo di fenomeni succedono soltanto appunto 5 milioni di anni fa, o non so, potrebbero ancora accadere? Sì, cioè, perché andando indietro vediamo la Terra che ha degli sconvolgimenti spaventosi, poi a un certo momento si tranquillizza? È perché probabilmente hanno ragione coloro che vedono i fenomeni geologici del passato con momenti di acme intensi. Ora, va sempre detto che quando ricostruiamo il passato noi lo schiacciamo temporalmente, certo. Non lo vediamo nella sua distribuzione, che è molto più lunga, dunque sarebbero fenomeni comunque distribuiti su un tempo più lungo. Però complessivamente questi sono eventi già accaduti, per esempio, ripetevo, tra il Mediterraneo e il Mar Nero la stessa cosa è avvenuta probabilmente 7500 anni fa, una soglia che divideva il Mediterraneo dal Mar Nero, acque dolci in quel caso, che a un certo punto si distrugge e le acque salate fanno il loro ingresso sopra il Mar Nero. Paradossale, se volete ancora di più, se arriviamo ai tempi nostri, il fatto che proprio nella zona zancleana, cioè del Messinese lì in Sicilia, alluvioni invece in tempi recenti hanno prodotto addirittura morti, però queste sono soltanto di acque di terra. Se posso aggiungere, questa ricerca spagnola conferma quanto una grande ricercatrice italiana, forse la più grande geologa italiana, Maria Bianca Cita, aveva preconizzato, credo, da qui a 40 anni fa, 30-40 anni fa, quando si studiava il Mediterraneo. Maria Bianca Cita faceva gli studi stratigrafici, cioè della distribuzione dei terreni in verticale, e aveva già ipotizzato non solo la crisi di salinità, cioè il periodo precedente, diciamo, quello dell'essiccazione, periodo precedente all'alluvione, ma poi aveva anche preconizzato che fosse stato non un riempimento tranquillo, quello successivo, cioè col mare che si innalza progressivamente, ma invece catastrofico a causa di un ingresso violento dalla soglia di Gibilterra, quindi bisogna renderle merito. Assolutamente sì, allora ci piacerebbe capire anche come fa un geologo a trarre tutte queste informazioni da un mare che adesso ovviamente come se vedesse è pieno. Un film. Allora, oggi le trattiene queste informazioni come se vedesse un'ecografia, perché si fanno dei sondaggi sismici e si ricostruisce in profondità una sezione, appunto uno spaccato, come una TAC, diciamo, in cui vedi come sono distribuiti i corpi in profondità. Naturalmente non sai di che cosa sono fatti. Per quanto riguarda il passato, invece, sono questi carotaggi, cioè prelevamento di campioni a diverse profondità nei sedimenti, anche più antichi, che ci danno modo di ricostruire non solo l'età per via dei fossili che ci sono, ma gli ambienti. E dunque sapere che, per esempio, oltre 5 milioni e mezzo di anni fa l'ambiente era molto siccitoso, salino, infatti c'erano tutti organismi adatti a vivere in queste condizioni, gli organismi alofili, come si chiamano, cioè quelli che amano le acque ricche di sale. Dunque lo sappiamo per certo dall'analisi di questi organismi, che se vivono oggi come vivevano ieri, organismi simili, quelle condizioni dovevano essere testimoniate, ossia l'animale che oggi predilige il sale, se viene ritrovato in forma fossile, vuol dire che stava in un'acqua ricca di sale, come fanno i geologi. Gli strati come istantanei, come fotografie. Sì. Grazie Mario, buon lavoro. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sarebbe tutto più semplice se il Morbus Anglicus si manifestasse con un herpes, dei puntini rossi. Con un bozzolo sulla fronte. Dei pruriti tremendi. Invece no, si nasconde tra le nostre lettere e le nostre parole. No, allora, di cosa parliamo? Sì. Introduciamolo. Parliamo della lingua italiana, quindi dobbiamo essere molto attenti anche a come... Non fare con i congiuntivi, a non fare strafalcioni. Le schifezze che facciamo di solito. Ecco, perché ti dico questo? Perché qualche giorno fa si è tenuto a Varese un incontro, una giornata di studio proprio sullo stato della lingua italiana. Ora entriamo nel dettaglio, ma qui abbiamo due dei relatori di quella giornata e cerchiamo in qualche modo di raccontarla. Benissimo, anche presentami ai nostri ascoltatori. Allora, Gianmarco Gaspari, intanto buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Lei è docente di lingua e letteratura italiana all'Università dell'Insubria di Varese ed è anche presidente della Casa del Manzoni a Milano. E poi diamo il benvenuto invece a Giovanni Iamartino. Benvenuto, buonasera anche a lei. Buonasera a lei e a tutti. Professore di lingua e letteratura inglese all'Università Statale di Milano. Dunque, direi di partire forse doverosamente dall'italiano, quindi da un'introduzione, e utilizzo proprio le parole che hanno utilizzato per il convegno. Il caso è grave ma non serio. Lo stato di salute dell'italiano oggi. Gaspari, il caso è grave però, insomma. Grave sicuramente, penso che ce ne rendiamo conto tutti i giorni, di quanta incuria sia legata un po' al nostro modo di comunicare, anche e soprattutto a quello pubblico. Penso alle televisioni, penso al linguaggio dei politici, penso ai giornali. Penso più precisamente, nella mia esperienza diretta, anche ai giovani che arrivano all'università, che spesso hanno un percorso di studi per quanto riguarda l'italiano e anche un bagaglio di letture molto approssimativo. Siamo di fronte a un panorama, e non parlo soltanto degli studi umanistici, a un panorama abbastanza desolante. Io ricordo qualche settimana fa, anche per quanto riguarda i dettagli minimi, non solo le particolarità ortografiche, qualche settimana fa mi capitava di essere in commissione di laurea con un collega, mi fa vedere una tesi e dice: "Toh, guarda, un punto e virgola in una tesi." Erano 10 anni che non ne vedevo uno. Questo sconosciuto. È vero che ho letto che sta scomparendo il punto e virgola. Sta scomparendo il punto e virgola, sta scomparendo il congiuntivo. Oddio, il congiuntivo, se noi dobbiamo davvero preoccuparci, pensiamo a che fine ha fatto il passato remoto. Cioè, certo, è inutile che ci preoccupiamo del congiuntivo quando abbiamo già dei cari estinti, no? Sicuramente io credo possiamo farne a meno, però una riflessione credo forte che dobbiamo fare è quella di chiederci se davvero parlando noi diciamo quello che davvero vogliamo dire, o se non ci lasciamo trascinare un po' anche da questa deriva del linguaggio. Sì. Qui è un tema che era stato affrontato anche da un grande, forse uno dei più grandi scrittori del nostro Novecento, Calvino. Dice: questa deriva del linguaggio trascina con sé anche una deriva dei valori, del mondo che il linguaggio rappresenta. Cioè, lei dice, se quello che tecnicamente perdiamo si porta presso anche un'incapacità di esprimere certe cose. Questo sicuramente. Questo lei dice. Questo. Ma che cosa è successo? C'è stata una semplificazione? C'è stata un'alterazione, una mutazione genetica? Cosa è successo? Molti meno vocaboli, per esempio. Cos'è che scompare? Sì, molti meno vocaboli, ma anche proprio anche l'uso improprio di quei pochi che noi usiamo normalmente. Qualche anno fa era venuta di moda parlare del vocabolario di base. Ricordo Tullio De Mauro aveva addirittura fatto una sorta di vocabolario di base dell'italiano, monitorandolo anche attraverso i media, soprattutto la televisione. Ecco, l'invasività di questi mezzi ha fatto sì che noi restringessimo sempre più i nostri orizzonti, tra l'altro parlando anche tra noi stessi, no? Cioè, questi giovani, so, capita di vedere gruppi di giovani che sono lì 4 o 5, invece di parlare tra loro stanno parlando con altri lontani tramite il telefonino. Sì. Ora, e questa costrizione nello spazio brevissimo di uno schermo di poche battute che si devono scambiare molto velocemente, quanto incide sul loro orizzonte mentale? Quanto restringe le loro possibilità di comunicare? Quindi lo vediamo più un limite che una possibilità nuova, nuove tecnologie, sì, che avanzano. I linguaggi si sono sempre trasformati, ma potrebbero passare da una ricchezza di un tipo a un'altra. Invece qui lei teme che, per esempio, se andiamo avanti così, invece che dire non, diranno tutti non, perché sì, si scrive nen. Come dire, un po' una prevalenza, una prevaricazione del mezzo, no? sulla necessità anche di comunicare liberamente, il dialogare, chiacchierare, ecco, è qualcosa che si sta perdendo anche in ragione di questa velocizzazione che impone naturalmente anche modelli comunicativi nuovi che sono sostanzialmente quasi sempre soltanto il sì o no. Appunto, rispondere a delle domande e semplicemente essere anche noi meccanizzati come i mezzi di cui ci serviamo. Quindi è un discorso che porta con sé anche una sua reale complessità. Pensi per esempio ai telegiornali, per fare un altro esempio che non è più legato ai modelli linguistici ma a quelli espressivi. Le cariche ansiogene di chi presenta le notizie al telegiornale con quell'andamento sincopato, no? In cui le pause nelle battute non sono fatte sono al momento giusto, ma sì. In incorporano metà della frase successiva. Uno per capire deve costruire e quello gli sì, cioè, sì. Non è un telegiornale, diventa un film di Dario sì. Argento. E anche il fatto che urlino molti, no? Molti, che il tono è sempre molto alto. E questo è un segno di scarsa fiducia in quello che si dice, no? Perché il fatto di doverlo urlare è appunto questo, per esempio. Te lo infilo nella testa. Ma al tempo stesso dobbiamo renderci conto che tutto questo è un'opportunità formidabile, non siamo mai stati così connessi, così comunicati. Sì, certo, ecco, certo. Infatti potrebbe essere una ricchezza e invece sembrerebbe. Dovremmo riuscire a trasformare. Però noi siamo partiti dal Morbus Anglicus. Infatti potrebbe essere anche colpa di questo Morbus Anglicus. Io direi di chiedere innanzitutto che cos'è, una definizione di che cos'è questo Morbus Anglicus al professor Iamartino. Beh, naturalmente, letteralmente era il titolo di un libro in cui veramente di medicina del Seicento, in cui dicevano qual era la malattia degli inglesi. Poi è stato preso e divulgato in qualche modo da un italianista negli anni Ottanta, proprio per lamentare questa assunzione esagerata di prestiti dall'inglese. Ecco. Che dilaga. Io continuo a non ritenerlo in realtà un morbo, nel senso che sono benissimo d'accordo con Gaspari nel dire che l'italiano non sta tanto bene di salute, ma che se l'italiano è malato, non so se ha un mal di fegato o un tumore, insomma, no, dai, diciamo che l'inglese è un foruncolo, ecco, non è molto più di questo dal mio punto di vista. Ecco, a questo proposito io, se lei è d'accordo, sentirei un'intervista immaginaria che lei ci ha mandato, in cui ci sono due persone appunto che dialogano tra loro. Prestate attenzione a quanti vocaboli inglesi sono entrati praticamente nel nostro linguaggio comune. Sì, non c'è nessuna forzatura, tra l'altro. Sentiamo. Quali le novità del network? Un reality show che ci farà vincere la guerra dell'audience. Volete aumentare ancora lo share in prime time? Certo, non possiamo permetterci un flop. Altrimenti cosa dice lo sponsor? Basta con quiz, soap opera e sitcom? No, anche questi hanno i loro fans. E poi sono perfetti per inserirci gli spot. Niente talk show alla Santoro? In futuro, magari. Ora pensiamo a un programma di gossip. Sarà forse un po' trash, ma tutti si interessano ai divi dello Star System. Le stelle del rock e dello sport, le attrici più ricche di glamour, insomma, i protagonisti del jet set. E la musica? Dedicheremo uno special al revival del pop made in Italy, con un testimonial d'eccezione che si esibirà in una performance live. E continuerà la solita hit parade. Eccoci, Martino. Diciamo che è un dialogo che potrebbe avvenire sì, tranquillamente. Sono tutte parole usatissime. Non è assolutamente una forzatura. È un po' troppo, la densità è un po' troppo. Potrebbe avvenire in che senso? Nel senso che qui siamo in un contesto di uso, per così dire, specialistico della lingua, no? Dei specialisti o diciamo del linguaggio della televisione, che ovviamente al giorno d'oggi è molto mutuato dal mondo angloamericano, e allora in qualche modo può avere senso. Ecco, io continuo a ritenerlo un po' una forzatura. Mi crea più problemi appunto l'uso fuori necessità vera, al di là di una necessità vera, in altri contesti. Ecco, però le lingue storicamente si sono trasformate molte, sono sempre state, si è passati insomma da un meticciato all'altro in continuazione. Dobbiamo per forza vederlo come negativa questa iniezione robusta di inglese? Guardi, io come storico della lingua so che non esistono lingue se non miste, quindi tutte le lingue sono contaminate, il concetto di purezza non esiste. Questo dialogo inventato, in realtà l'idea è venuta da qualche cosa che è successo nel Cinquecento, quando uno scrittore inglese ha scritto una lettera inventata infarcendola di parole polisillabiche che lui lamentava l'inglese prendeva dal latino, dal greco e dall'italiano. Quindi esatto. Le cose non cambiano da 500 anni a questa parte, gli eccessi sono da condannare, l'uso è governato dai parlanti e ci può stare, ecco. Se è un uso governato, se è un uso attento, se non c'è quell'incuria di cui, o quella sciatteria di cui parlava Gaspari. Sì, tra l'altro gli inglesi della Gran Bretagna dicono che gli americani stanno violentando l'inglese, no? Per esempio. Certo, poi ognuno... insomma, stanno violentando il mondo. È chiaro che l'uso dell'inglese oggi come lingua del mondo, certo dipende, tornando indietro, dall'impero coloniale inglese, ma è chiaro che dopo la Seconda Guerra Mondiale è la potenza americana che l'ha fatto diventare quello che ci sono molti fattori sociali e storici. Gaspari, lei come la vede questa influenza forte dell'inglese in questi ultimi periodi in maggior con la modo rete poi esplode. Come la vede? Potrebbe essere una delle cause che dicevamo all'inizio della semplificazione e un po' la leggerezza con cui utilizziamo la nostra lingua? Sì, sono d'accordo con Ia Martino sul fatto che esista inglese e inglese. Quello di cui stiamo parlando è l'inglese da aeroporto. L'italiese. Ecco, l'inglese come lingua di comunicazione, quello in cui se si incontrano un cinese e un neozelandese, ecco, di comune intesa, parlano sì. Quello. Ecco. Sì. Le ricadute sull'italiano, sì, sono tante, anche abbastanza micidiali, anche in termini di gusto. Basta, a Milano chi passa in zona Stazione Centrale ha presente che dove inizia un viale importante c'è un negozio che ha come insegna Occhial House. Ah sì, è vicino a casa mia, tremendo. E Dr. Dentist, credo Dr. che sia Dentist è un'altra perversione. Non credo che faremo pubblicità a questo. Però dobbiamo ricordare che l'italiano, come tutte le lingue vive, ha sempre assorbito e fatto propri questi elementi in un'ottica positiva. Cioè il 70% dei nostri prestiti linguistici, partendo dalla nostra base latina, 70% dei prestiti, quindi latino a parte, vengono ancora dal greco. Certo. E ce ne sono molti di più dal francese tutt'oggi che non dall'inglese. Certo, quindi certo. L'inglese, certo, quando è arrivata la tecnologia, il mondo dell'informatica ovviamente parla inglese. Lì ci siamo adattati con un italiano un po' pittoresco che si è dovuto interrogare su certe modalità. Da click to click va bene cliccare. Ma tu scan, ricordate che qualcuno aveva tirato fuori scannare. Scannare, no? Poi è arrivato scansire, che era scannerizzare. Poi è stato evitato, ora siamo arrivati a scannerizzare, che era un pochino evitato perché è molto lungo, molto però sa, questa lunghezza, il polisillabismo, alla fine è uno dei condizionamenti della nostra lingua rispetto all'inglese, no? Lingua monosillabica, asciutta, bisillabica, sì. E questo ci ha creato problemi quando è arrivata la musica rock, no? Il nostro bel canto, no? Se n'è andato. Ecco, se n'è andato. Lì c'è stata da una parte i Beatles con la loro lingua, dall'altra parte i Pooh, no? E il mondo è appunto meno. Però se la mette su questo piano, i Beatles ci schieriamo noi. Però quella era anche un po' l'eredità del fatto che l'italiano, quando era una delle lingue più presenti al mondo in ambito culturale, era la lingua di Petrarca, infatti, era la lingua di Dante. Proprio a questo proposito, anche relativo all'ambiente musicale, volevo chiedere a Ia Martino se in qualche modo l'italiano invece influenza le altre lingue, forse nella musica, soprattutto quella più classica, l'italiano la fa da padrone, sì, o sbaglio? Sì, da sempre. Tradizionalmente l'italiano dell'opera dal 600-700 è in tutte le lingue del mondo, non solamente in inglese, no? Allegro, andante, eccetera, eccetera, tutta questa terminologia è sicuramente presente. Ecco. Più recente, certo, c'è quello che appunto a fronte di questo mare, che è l'inglese che va verso le altre lingue, ci sono un po' questi piccoli fiumiciattoli delle altre lingue verso l'inglese, perché l'inglese, essendo diventata lingua del mondo, è anche stata la lingua che ha preso poi da tutte le lingue del mondo, ed è vero, una delle certo. cause del suo successo, no? Non so, per dire, ad esempio, vabbè, noi avremmo preso a inizio Novecento bar dall'inglese, ma adesso in inglese si usa barista. Ah, la parola italiana barista viene usata in inglese perché certo. è comoda, perché va bene sia per uomini che per donne. Non c'è il problema di dire barman, per cui implica che è un maschio, ma e quindi viene usata. Ecco, una volta avevo scritto un articolo intitolato "Non solo maccheroni, mafia e mamma mia", ecco, per parlare dei prestiti italiani in inglese che ci sono stati. Sentite, però, in conclusione, non si può far niente, cioè ne parliamo qui in trasmissione per capire com'è il fenomeno, ma no, non dobbiamo far niente, è inarrestabile tutto ciò. C'è no? una medicina. Io come storico non posso che stare lì a registrare a i fatti e a cercare di capire. Gaspari, lei in chiusura ci dice qualcosa? Guardi, la giornata che abbiamo tenuto all'Insubria il 29 ottobre, a cui appunto ha partecipato anche l'amico Ia Martino, è stata una giornata che ha avuto un successo anche in termini di presenza di un pubblico comune, non solo degli studenti. Vuol dire che questi temi, probabilmente come avete detto prima, c'è poco da fare, però una sensibilizzazione su questi temi, un avvio di riflessione, trovarsi a parlarne, credo che sia già un modo per non forse arrivare a risolverlo, ma a farcene rendere conto del fatto che esiste tra i tanti problemi anche questo, e forse è un problema che magari affrontato potrebbe aiutare a risolverne altri, no? Anche un po' quello che so di certe chiusure anche mentali, non solo certo. Anche una maggior formazione, una maggior conoscenza di entrambe le lingue anche, per questo forse. Abbiamo pensato di renderlo, se ci riusciremo, un appuntamento annuale, proprio per l'interesse che ha sollevato in noi che l'abbiamo organizzato, e qui ringrazio ancora Gianmartino di essere stato presente, e nella quantità di pubblico che se ne è interessata anche attraverso monitoraggi, giornali, radio, eccetera. Radio, eccoci qua. Va bene, vi ringrazio davvero per la vostra collaborazione. Grazie Gaspari, grazie Gianmartino. Grazie. Buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Anche gli ambienti di vita, quelli nei quali siamo più presenti quotidianamente, certamente con nuove tecnologie, vengono ad essere investiti da nuovi modi di progettarli. E Chiara, questa sera, per parlare di ciò, abbiamo un ospite importante che abbiamo già sentito in altre occasioni raccontarci più che altro di smart city, di politiche di smart city. E questa sera invece ci racconterà abbiamo invece di modi di fabbricare, di utilizzare il legno in maniera più smart, più intelligente. Abbiamo con noi Carlo Ratti in collegamento da Boston. Buonasera. Buonasera. Buonasera Natti, lei a Boston è docente al MIT, però è particolarmente noto per questo laboratorio, il Sensible City Laboratory, che lei dirige, però sta anche operando ormai in Italia e in Europa, dove ha un suo studio. Ecco Ratti, parliamo di lei perché il 21 prossimo lei sarà qui in Italia a una giornata dell'innovazione sul tema dei processi innovativi, quelli che si possono mettere in campo anche abbastanza rapidamente nel settore dell'arredamento, che è un settore importante insomma per l'Italia, abbiamo una tradizione importante, è un appuntamento organizzato a Chilometro Rosso, questo incubatore di ricerca tra Milano e Bergamo organizzato da Federlegno Arredo. Ecco, allora Ratti, da dove vogliamo incominciare? Beh, innanzitutto sì, è verissimo, direi che il settore dell'arredamento è ancora una delle grandi eccellenze del nostro paese, basti pensare anche a cosa succede a Milano durante il Salone del Mobile, durante la Fiera del Design, quindi in cui proprio certo. la città con persone da tutta Europa e da tutto il mondo che arrivano da noi. E l'aspetto di cui tratteremo proprio appunto in questo incontro è legato un po' a quei nuovi sistemi di produzione, quella che l'Economist in una copertina di qualche mese fa ha chiamato in modo anche piuttosto aggressivo una terza rivoluzione industriale. Il titolo tra l'altro è un titolo preso in prestito da altri, ma comunque quindi proprio come queste nuove macchine stanno cambiando il modo di produrre. E di che macchine stiamo parlando? Stiamo parlando di tutte quelle macchine digitali che sono di vario tipo, in alcuni casi sono delle taglierine laser, in altri casi sono delle stampanti tridimensionali, però tutte quelle macchine che permettono in pratica di disegnare un oggetto su un computer e poi di realizzarlo in modo automatico. Sono le stampanti 3D, tra l'altro la caratteristica di questa procedura diciamo di produzione è anche che non si spostano più gli oggetti, ma se ci sono le stampanti distribuite un po' nel mondo, uno manda un file e poi viene prodotto localmente, no, l'oggetto. Sì, questa è un'idea molto bella, devo dire, io penso ci vorrà un po' più di tempo di quanto oggi ci si aspetti, nel senso che oggi non siamo ancora capaci, ad esempio, di stampare un iPhone completamente, sappiamo, o diciamo più in generale, perché la stampa è un processo additivo, ma molte di queste macchine funzionano invece con un processo all'opposto, togliendo materia, sono le taglierine laser, i router, eccetera. Comunque, ecco, non sappiamo ancora come fare un iPhone completo, anche se molti pezzi dell'iPhone sì possono essere prodotti con questi sistemi di digital fabrication, di fabbricazione digitale. Però i cambiamenti che noi abbiamo visto negli ultimi 10 anni sono spettacolari. 10 anni fa qua a Boston lavoravamo con alcune di queste macchine all'inizio, le prime sono di 15-20 anni fa, ed erano, permettendo di fare dei modellini fatti di polvere, ma abbastanza inutilizzabili. Beh, di quest'anno invece è la notizia che General Electric, una grande multinazionale americana, sta iniziando a stampare in 3 dimensioni le palette dei motori jet, e questo è proprio un cambiamento radicale. Ecco, infatti lei pochi istanti fa l'ha definita come la terza rivoluzione industriale, credo che appunto adesso ci abbia dato un'idea, e però all'inizio ci parlava anche dell'industria del legno, che appunto in Italia è particolarmente rappresentata e appunto quanto mai importante. Anche in questo ambito si può ad esempio utilizzare? Io credo che ci sia qualcosa di molto interessante proprio nel combinare la grande tradizione italiana dell'artigianato e anche la creatività italiana con queste nuove macchine. Perché cosa succede? Uno degli aspetti importanti è molto simile a quello che è successo nel campo delle stampanti normali. Qui non stampiamo un foglio di carta, ma stampiamo un oggetto. Beh, se noi prendiamo la Bibbia di Gutenberg, l'unico modo per produrla era produrne tante tutte uguali. Mentre se noi stampiamo su una stampante laser un foglio di carta, possiamo produrre tante cose uguali, tante cose diverse, il costo è lo stesso. Lo stesso accade con questi oggetti, con queste macchine che producono che stampano non un foglio di carta ma un oggetto. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è molta più possibilità di sperimentare, quindi di cambiare la forma, di farla evolvere. E quindi questo vuol dire che la creatività o comunque quel sapere anche artigiano che è molto forte nel nostro paese può diventare un grande punto di forza in questa che appunto alcuni, per cui come dicevamo l'Economist, è chiamata una terza rivoluzione industriale. Cioè lei ci sta dicendo, in effetti anche noi quando ne parliamo cerchiamo di sottolineare questo aspetto, che la caratteristica di queste tecnologie di produzione è che c'è un oggetto, ci può essere un oggetto al centro, un progetto di base, che però può essere molto declinato, quindi venendo incontro a molte esigenze diverse, e questo certo rispetto alla rivoluzione, alla produzione industriale classica, è una grande rivoluzione. Ecco, ma Ratti, riesce a darci magari qualche esempio? So che lei sta lavorando su progetti italiani, insomma, con marchi italiani. Un esempio, un progetto su cui stiamo lavorando, abbiamo lavorato e stiamo lavorando con Cassina, uno dei produttori di mobili di arredamento italiano, in cui proprio abbiamo usato alcuni di questi sistemi di fabbricazione digitale per produrre dei nuovi oggetti di arredamento, e usando questi sistemi siamo riusciti a creare dei meccanismi diversi nel modo di lavorare il legno che permettono ad esempio di avere molte configurazioni dello stesso oggetto. Tra le varie cose abbiamo disegnato una coffee table e una serie di altri oggetti che fanno parte di un tema che abbiamo chiamato Our Universe, il nostro universo di oggetti attorno al divano e alla casa. So che anche parlerà in questo appuntamento di quell'ambiente molto particolare, molto importante in quella che è una routine di vita, che è la cucina, che è il luogo, un luogo centrale nella vita della casa. Esattamente, quello è un altro progetto che stiamo adesso portando avanti proprio in questi mesi, sia con Indesit per il salone dell'anno prossimo, proprio di riflettere sulla cucina e su come molte di queste tecnologie, non solo le tecnologie della connettività, ma anche le tecnologie proprio della terza rivoluzione industriale, possono cambiare l'ambiente della cucina, e anche su quello che poi sarà il padiglione chiamato Future Food District dell'Expo a Milano nel 2015. E proprio l'aspetto interessante, io credo, di vedere come queste nuove tecnologie alla fine possono cambiare il modo proprio di vivere all'interno delle nostre case. Ecco, in ambito un po' più ampio, cambiando appunto gli ambienti della nostra casa, quelli che ci sono più familiari, cambia anche in qualche modo la città. E di fatto questa terza rivoluzione industriale ha un impatto sulle nostre città. Lei addirittura sta lavorando in una città che noi tutti conosciamo, Barcellona, proprio su questo ambito. E la cosa è molto semplice. Quello che noi abbiamo fatto negli ultimi 20-30 anni è stato demolire le fabbriche nelle nostre città, spostarle fuori oppure spostarle in altri paesi e al posto costruire edilizia residenziale o per uffici. Ecco, l'aspetto interessante è che nel momento in cui possiamo produrre gli oggetti in modo nuovo, con alcune di queste nuove tecnologie, con questa, chiamiamola, fabbricazione digitale in senso lato, non solo le stampanti tridimensionali ma anche gli altri di cui parlavamo prima, ecco, allora tutto cambia, perché le fabbriche possono quasi tornare nelle nostre città, ma sono fabbriche diverse, sono fabbriche pulite, piccole, che teniamo in uno scantinato. E allora la grande domanda è: che tipo di quartieri possiamo immaginare? E sembra quasi un ritorno, se vogliamo, ai quartieri delle nostre città nel Medioevo, insomma, in cui c'era una parte residenziale ma anche la produzione stessa era nella città. E questo è proprio quello che stiamo cercando di immaginare con il sindaco di Barcellona in un nuovo quartiere, vicino in quella che si chiama la zona franca, una zona di produzione tradizionale di Barcellona tra il Montjuïc e l'aeroporto. E proprio nel progettare questo nuovo quartiere stiamo cercando di immaginare come appunto possa anche accogliere sistemi di questo tipo, perché quando progettiamo un nuovo quartiere, questo quartiere durerà 50-100 anni, ma sappiamo che queste tecnologie fra poco tempo, già oggi, ma poi fra 5-10 anni, cambieranno radicalmente il nostro modo di produrre. Anche perché credo, mi dica se sbaglio, che dobbiamo sottolineare come se storicamente pensiamo la Londra del secolo XIX era un orrore, no? Questa cosa delle fabbriche in città con la gente che gli viveva vicino, però allora era tutto un modo di produzione di vita disastroso, invece adesso possono ritornare le fabbriche, diventano più piccole, sono assolutamente pulite, tornano nell'abitato, non sono più in periferia, e allora a quel punto il fatto che per esempio lavorarci vicino sia conveniente, per esempio pensiamo al problema degli spostamenti, beh, questo diventa completamente diverso e alquanto sostenibile. Lo stile di vita migliora senz'altro. Assolutamente, sì, se noi pensiamo alla città del secolo passato, la città per cui Le Corbusier negli anni 30 nella Chartres d'Attendi, cioè bisogna separare tutto, separare la zona residenziale, esatto, dalla zona della produzione, dalla zona del tempo libero, e cosa vuol dire? Vuol dire creare una città assurda in cui ogni quartiere sarebbe stato vuoto per la maggior parte del tempo, esatto, e con dei grandissimi flussi di traffico tra uno e l'altro. Questo vuol dire invece non soltanto quello che abbiamo visto negli ultimi decenni, questa idea di mixed use development, di mettere insieme residenze, uffici e altro, ma anche proprio portare la produzione stessa di nuovo dentro alle nostre città. Carlo Ratti, grazie. Ricordiamo allora che lei farà parte con una serie di altri interventi di questo appuntamento, questa giornata di studio promossa da Federlegno Arredo sui temi del design per arredamento, che è insomma un grande potenziale italiano. Il 21 novembre a Chilometro Rosso a Bergamo. Grazie, arrivederci Ratti e buon lavoro. Grazie a tutti, a presto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Si è tenuta questa settimana a Roma una conferenza stampa nella quale Asso Biotech, che è l'associazione delle aziende che lavorano in questo grande settore delle biotecnologie, che vi ricordo contiene anche tutta l'area delle applicazioni di tipo biomedico, si è tenuta appunto questa conferenza stampa nella quale è stata presentata una ricerca svolta dall'ISPO, l'Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione, e adesso per entrare nel merito di questa ricerca chiamo subito in causa la nostra ospite Claudia Brunelli. Buonasera Brunelli. Lei è una ricercatrice appunto dell'ISPO. Allora, invece di tentare di definirla io in generale, incominciamo con lei e ci dica: l'obiettivo di questa ricerca era capire in che modo il largo pubblico percepisce una differenza importante. Ci dica quale. Sì, la differenza tra il canale di donazione e di conservazione sono due diversi modi, diciamo così, di utilizzare il cordone ombelicale. Quindi le donne hanno partorito possono decidere di donare oppure conservare, se sono idonee, il proprio cordone ombelicale. Donare vuol dire che quello che si può ricavare dal cordone ombelicale è a disposizione di tutti, conservare è perché viene utilizzato per, diciamo, la propria famiglia, per famiglia, proprie. Esatto, sì, il canale quindi della donazione, e così si chiama perché proprio la donna dona il cordone ombelicale, ecco, del bambino al sistema sanitario nazionale, perché le cellule staminali del sangue cordonale vengono utilizzate sia per la ricerca scientifica che anche per chiunque, diciamo così, avesse bisogno di cellule staminali. Ricordiamo che dal cordone ombelicale si possono ottenere cellule staminali che possono avere, che hanno una certa potenza applicativa piuttosto importante, insomma, per la ricerca che è emersa negli ultimi anni. Il canale della conservazione invece consiste nel conservare a nome del bambino il sangue del suo cordone ombelicale, appunto, per un uso futuro solo del bambino o dei suoi ristretti familiari. Quindi rimane una proprietà e viene bancarizzato in banche private, che sono anche banche italiane, ma hanno le loro sedi all'estero. Quindi c'è anche questa differenza, usiamo questa parola, insomma, amministrativa di questo bene, mentre invece la donazione che cosa va all'ospedale, va dove finisce, se c'è la donazione? Va a banche di crioconservazione, però pubbliche. Ecco, allora Brunelli, voi volevate capire in che modo il pubblico intanto è informato di queste cose e poi come si confronta con queste due scelte che indubbiamente sono diverse, no? Sì, l'obiettivo, diciamo, la domanda di ricerca con cui Asso Biotech ha coinvolto ISCO era proprio capire quale fosse la consapevolezza innanzitutto dell'esistenza di questi due canali e poi se sono note le caratteristiche. Poi in realtà la scelta è una scelta del tutto personale, quindi sì. Però almeno che siano chiare le caratteristiche, così che sì. Ciascuno, se è idoneo, può decidere che cosa fare del sangue del cordone così prezioso. Il campione qual era? Abbiamo intervistato un campione di 600 individui, statisticamente rappresentativo della popolazione italiana tra i 20 e i 44 anni, la popolazione fertile, diciamo in età da bambini piccoli. Cominciamo a vedere cosa è venuto fuori? Abbiamo rilevato che effettivamente la conoscenza è veramente molto, molto scarsa. Sì, al di là delle caratteristiche tra i due canali che non vengono distinti, ma anche dell'esistenza stessa dei due canali. Sull'esistenza abbiamo rilevato che in realtà c'è una metà circa della popolazione che abbiamo intervistato, addirittura il 48%, che non conosce questa distinzione. Aveva a tutt'al più sentito parlare del utilizzare il cordone ombelicale, ma senza informazioni più precise e senza saper dare poi nessun tipo di indicazione, addirittura senza neanche conoscere i due canali. Quindi chi proprio, invece diciamo aveva dichiara inizialmente così di conoscere invece donazione e conservazione, quindi anche la distinzione diciamo così di binario, sembra essere inizialmente un quarto, quindi in apertura di intervista, poi in realtà approfondendo noi la questione, sottoponendo tutta una serie di domande, abbiamo verificato che la percentuale è molto molto più bassa, è quella che noi riteniamo per i nostri indici sintetici che abbiamo costruito, una conoscenza almeno sufficiente, scendiamo all'11%. Ma non solo, quindi questo primo diciamo nostro quesito di ricerca è stato soddisfatto diciamo in questo modo, ci abbiamo dato queste risposte, ma abbiamo capito che in realtà non c'è neanche una consapevolezza, come dicevamo, del solo fatto di utilizzare il sangue cordonale, ma ancora più a monte, un po' più in generale, delle staminali, perché la popolazione non ci sa distinguere, non ha consapevolezza, conoscenza, alfabetizzazione proprio sulla distinzione ad esempio tra staminali cordonali e staminali embrionali, quindi un discorso diciamo molto più alto che ci fa capire che magari anche all'interno anche questo pubblico insomma che sente il dibattito pubblico che coinvolge anche questi argomenti probabilmente non ha proprio tanto gli strumenti per poter andare a fondo e comprendere a fondo le questioni. Certo, perché quello che voi dite, che lei dice, è che gli arriva magari, anche se una percentuale bassa, la distinzione tra le due cose, conservazione o donazione, però poi sul significato reale di cosa ciò significhi dal punto di vista delle applicazioni e risultati, il dato è abbastanza critico, insomma. A monte, sulle staminali, non si sa granché, addirittura non si sa neanche che il cordone ombelicale è fonte di staminale, quindi è materiale prezioso che può essere diciamo così utilizzato dopo il parto, e ancora più diciamo a fondo della questione tra donazione e conservazione c'è un'assoluta confusione. E a volte proprio assenza di informazione, direi. Questo era il focus dell'inchiesta, sul quale si possono fare diversi ragionamenti. Voi siete rimasti stretti su questo aspetto, che dà un quadro certamente di un'informazione che arriva male al pubblico qui. Sì, esatto, infatti al di là poi di quello che è donazione e conservazione, che come dicevo poi qualche minuto fa si tratta anche un po' di una scelta personale, però l'importante è che comunque la popolazione arrivino delle informazioni, magari poche, semplici anche dal punto di vista dico terminologico, no? Perché è chiaro che poi la scienza è anche molto complessa, però queste poche che siano date in maniera corretta, in modo tale che il quadro sia chiaro e ciascuno possa prendere le proprie decisioni in autonomia, però dando comunque un'opportunità della scienza, perché la stragrande maggioranza dei cordoni ombelicali viene gettato. Certo, questo è il dato. Diciamo l'eleggibilità delle donne non è completa, un po' più per conservazione, mi spiegavano, un po' meno per donazione, però comunque se non si sa diciamo della possibilità di utilizzare il cordone non si può neanche fare richieste. Sì, purtroppo questa poi di fatto è la conclusione, cioè la mancanza di informazione, di valore sulla distinzione dei due utilizzi, ma in generale sull'utilizzo, fa sì che poi questo valore in realtà venga buttato via. Claudia Brunelli, grazie, auguri grazie per la sua attività di ricerca. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Allora Chiara, ti ho richiamato qui perché sì, se c'è un cordone ombelicale tra noi e i nostri ascoltatori, esso si chiama? Si chiama podcast, in realtà c'è anche la radio come primo cordone diretto. Certo. E poi in realtà se voi non riuscite a seguirci in diretta perché avete altro da fare o avete una cena importante, non vi preoccupate perché potete riascoltarci dal lunedì successivo dal podcast. Come si fa? È facilissimo, o andate sul nostro sito www.moebiusonline.eu, c'è un bottoncione nell'home page in cui lo cliccate. Bello, ed è facile abbonarsi, ovviamente gratuitamente, tutto. E riceverete, come dire, gli aggiornamenti ogni settimana automaticamente, oppure sul sito di Radio 24 www.radio24.it nella sezione podcast raggiungete la nostra pagina Moebius e c'è iscriviti al podcast, e lì semplicemente con i programmi tipo iTunes, Google Plus eccetera basta abbonarsi, inserire il nostro nome e lì automaticamente si scaricherà la puntata odierna. Abbiamo detto tutto? Tutto. Dobbiamo salutare. Ci sentiamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.